Niente, allora ci tocca iniziare questa trasmissione già con 10 minuti di ritardo, 87.9 ROR 0649 1750, e sarà quest'oggi martedì, che giorno è, Lucio? Diccelo un po' e salutaci. Allora, oggi è martedì 13, vi posso anche dire l'ora precisa, sono le 16:10:22, 23:24. Sarà un bel ritorno all'infanzia, siamo senza PC, gli MP3 per adesso non esistono qui in radio, e perciò un ritorno al CD, che io bene o male mi ricordo come funziona, perciò cerchiamo di mettere un po' di musica da lì. Che ne dici tu? Ah sì, ce l'hai i CD però te? I CD? Boh, tu ce l'hai? No. È un po' casino allora, mi sa. Sì. Vabbè, parleremo. Vabbè. Vi cantiamo qualcosa noi? Vabbè, meglio di no, mi sa. Entrati in regia, ci siamo già trovati due CD dentro i CD player, e non lo so, io ho messo la prima canzone di uno che stava là, proviamo a mandarla pure senza conoscere il CD, vediamo com'è, ce la commentiamo, sì. Vediamo se ci piace. Poi se no, se non vi piace, è il biondo che ve la canta dopo. Vabbè, se vi piace, squilletto, famo come a daglie pure te. E io uno squilletto che lo farei. Partita bella potente. E vi avremmo voluto far ascoltare anche il nostro disco del libro di letteratura inglese, però questi CD player non sono propensi all'imparare l'inglese e li rifiutano, ci ributtano fuori al CD. Hai rotto il cavolo per abbassare la musica. È molto radiofonico però. È pure divertente, se io sto sempre qua fermo con le mani in mano, senti. Mannaggia, mi incasino pure con i pulsanti, sono abituato con quelli del PC, guarda, è proprio un'altra generazione sti giovani oggi che non sanno usare i CD. Sedici, 14 minuti primi, 87.9, credo che la mia intelligenza superiore alla tua, Lucio, abbia trovato un escamotage per mandare la musica che ci eravamo preparati prima della trasmissione, ossia che io mi ero preparato prima della trasmissione, perché come al solito tu non fai un emerito cavolo. Allora, sentiamo l'escamotage del mitico. L'escamotage lo vedi tra poco in fuori onda, perché insomma deve essere una sorpresa. Comunque continuatevi ad ascoltare questo pezzo di non so chi, in realtà scusate, magari è pure un gruppo famoso, io non lo conosco. Comunque ascoltatelo e squilletto se vi piace. 0649 1750. prima squilletta è arrivata e dai così. Intanto, mentre voi stavate ascoltando questa canzone, il nostro biondone è sparito dalla redazione, è uscito, ha preso la porta e probabilmente è andato a prendere la soluzione a questo grande problema e aspettiamo questa sorpresona. Ma che promettono la manna, e infatti parlavi sempre a malavoglia del tuo non lavoro e certo l'imprenditore a costo zero, troppo facile davvero, troppo falso e menzognero, conti conti ma non ti basterà e dimagrirai, cortese pupazzo filibustiere falso. Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, pezzi solo ai tuoi soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, solidi o liquidi, oppure vuoi dei liquidi solidi, li preferisci solidi o liquidi, o sono insieme liquidi e solidi. Bugiardo e ripetevi mille storie tipo fida. Le siete messi paura? No, non scappo, non vado da nessuna parte. 16-18 minuti primi, 87.9 in FM. Pagliaccio, ti difendevi sempre con... E la mia idea geniale era quella di prendere un CD vergine e metterci sopra le canzoni, le MP3 che avevo salvato sul mio disco rigido. Allora cosa chiedi? Peccato che la radio non abbia dei CD vergini. La tua collera. E questo perché ci autofinanziamo e ci finanziamo con i contributi degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Per questo potete farlo su www.ondarossa.info premendo il tasto sottoscrivi tramite PayPal oppure attraverso il conto corrente postale 618-04001 con un contributo volontario di quello che volete, una piccola offerta per Onda Rossa da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185. Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, sold quel labile crinale che separa la realtà dalla fantasia, un posto dove abitano solamente i folli. Sapevo che volevo e dovevo scappare, andare via, lontano, ma non sapevo ancora né dove, né come, né quando. Però era così e ne soffrivo. Parlano molto più certi silenzi, stridono come quei tuoi sguardi che mi uccidono. Tra i dischi trovati, eccone uno prodotto proprio da Rede Onda Rossa, di musica elettronica negli anni '80. Andiamo ad ascoltarci il primo brano e vediamo se ci piace. Sentite, Lucio si sta divertendo tantissimo ad alzare e abbassare la velocità di questo bellissimo pezzo. E lascialo poretta in velocità normale, no? E allora ancora una volta, se vi piace, alle 16:25, minuti primi, 24 secondi, 0649 1750 il numero da chiamare. E basta questi arsa e bassa. Fidati che spacca. E poi l'hai fatto pure te. No, che non l'ho fatto. E poi sarebbe stato per una buona causa, ovvero farti smettere a te. Vedi che l'hai rifatto? Visto che mi arrivano gli squilletti a me che alza basso? Casomai gli squilletti arriveranno a me che te faccio interrompere sta litania noiosa. Tu hai provato a interrompermi, ma io ho continuato e hai continuato anche te, perciò il mio metodo funziona e ci stanno facendo gli squilletti. Penserete, guarda sti idioti che stanno a cazzeggiare. Ma sono le 16:26 minuti primi, 52. E basta! Secondi a Radio Onda Rossa 06491750, Rage Nair, la voce degli studenti medi auto-organizzati. Adesso cominceremo un discorso sensato, non vi preoccupate, abbiamo cose da dirvi, ma come vi dicevamo poco fa, stamattina c'è stato un blackout in tutta la zona e perciò abbiamo avuto qualche problema con i server, con il PC, con la musica, e stiamo cercando di capire come funzionano questi strani aggeggi che fanno girare dei dischi e riproducono musica che purtroppo noi delle nuove generazioni non ci ricordiamo più come funzionano. Senti, ma un bel 35 giri ce lo mettiamo su? Ad avercelo. Potrebbe fare un corso di lettori CD e di lettori vinili lì. Senza DJ che alzano e abbassano. Come te. 06 491750, 16:28 minuti primi su Radio Onda Rossa. Onda Rossa @ondarossa.info per scrivere alla radio. Regioneir @ondarossa.info per scrivere a quei due imbecilli che vi stanno parlando dei microfoni di Onda Rossa. Che dici, volevamo cambiare? Sì, cambiamo genere, va. Andiamo su Corno Rosso, abbiamo trovato un pezzo intitolato La Meraviglia Cubana, vediamo se lo riesco a mettere da capo. Ammazza, o sta diventando proprio forte, poi li faccio io i corsi, altro che... E allora, da Cosmo Rosso, La Meraviglia Cubana. Di arte, di concetto, di amore e di sessualità. la politica degli squilletti ci piaceva. 16:31 minuti primi su ROR 87.9 0649 1750. Ci piace interagire con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Se ci volete insultare perché stiamo dicendo una marea di cavolate, allora chiamate 0649 1750. Subito una chiamata, oh, proprio precia. Ed ha prevalso lo squilletto, stavamo a sud a freddo, arriva la chiamata, ecco adesso che ci arrivano una cifra di insulti. Rivoluzione cubana. Non vi vergognate a chiamare, anzi fateci un piacere, perché qui già il biondo è fuori controllo e questa trasmissione andrà a schifio se continuiamo così, vi prego chiamate. Questo significa che la rivoluzione... Oh, te stanno pure ascoltando, ma io dico, chi sarà? Ha fatto parte e farà parte. Un altro squilletto, e dai così. 0649 1750. 16:31 minuti primi, 55 secondi. ROR 87.9. Questa è Region Air. Il profitto, l'abolizione delle tasse, i trasporti gratuiti. Ha ipotizzato in altri termini l'ipotizzazione di una società socialista nei Caraibi. Dopo la rivoluzione cubana è venuto il subcomandante Marcos, è venuta la rivoluzione sandinista e sono venuti i movimenti guerriglieri in America Latina. La rivoluzione cubana significa il rapporto con Mosca, significa il rapporto con i paesi socialisti, significa che il primo paese socialista d'America ha ipotizzato la libertà e l'uguaglianza in una parte fondamentale del mondo. Ciò significa che l'impero, l'impero rosso, l'impero comunista, l'impero cubano ipotizzano un'entrata nel millennio in cui la Palestina, in cui l'abolizione dell'imperialismo, l'ipotesi della rivoluzione mondiale si afferma e si consistenzializza. Passando sull'altro giradischi o gira CD o come lo vogliate chiamare, comunque alziamolo, ascoltiamolo. Beh, si sente che anni 80 è proprio jeans vita alta. E allora lo dico a tutti i trentenni a cui viene la lacrimuccia agli occhi pensando agli anni 80. 0649 1750 per farci uno squilletto. I trentenni sono nati negli anni 80 e gli viene la lacrimuccia agli occhi a pensare quando avevano 6 anni, 85, 86, che ascoltavano questa musica. O sbaglio, se non sbaglio fate uno squilletto. Visto che non sbagliavo? Incominciamo col dire che lo squilletto è arrivato mentre tu parlavi, quindi non potevano saperlo a cosa era destinato quello squilletto. E poi continuiamo col dire che basta interrompere le canzoni e istigare la gente agli squilletti. No, no, giù di squilletti. Region Air squilletto, 16:35 minuti primi, 18 secondi, 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Region Air, continuate con gli squilletti. 0649 1750. Guardate, gli squilletti sono così tanti, è così bello sentirli che vi manderemo in diretta il suono di uno squilletto, ma purtroppo non si può. Beh, in realtà si sente, perché io l'altro giorno ascoltavo la radio, hanno messo questo secondo telefono che c'ha una suoneria che fa esplodere la regia, praticamente si sente pure dal primo microfono. Comunque, in caso giriamo un microfono verso il telefono e vi facciamo sentire le fiamme del telefono mentre sta per esplodere per tutti gli squilletti che arrivano. Ma gli squilletti non arrivano più, perciò vi ah, eccolo un altro che è arrivato. 16:35 minuti primi, questa è Radio Nair su Radio Onda Rossa 87.9 0649 1750. Se ci state prendendo in giro con gli squilletti non è tanto simpatico, grazie se invece sono sinceri. Musica. Allora, a questo punto direi di istituire una nuova modalità di stare in trasmissione. Facciamo così: adesso noi mettiamo una canzone, per votarla voi fate gli squilletti e a fine trasmissione facciamo una classifica tra le tre canzoni che abbiamo messo. Va bene? Potrebbe funzionare se in mezzo alle canzoni non cazzeggiassimo, perché magari gli squilletti arrivano per il cazzeggio, cioè per la mia splendida voce, naturalmente, no? Ma vai, vai, con la tua splendida voce, mando vai, ma per favore. E dai, è finito questo pezzo, facciamoci un discorsetto, magari un po' di voce del movimento, dell'assemblea cittadina, degli studenti medi in mobilitazione, degli studenti medi auto-organizzati, avrà qualcosa da dire, perciò, non lo so, vogliamo parlare di qualcosa? Ma sì, ma in fondo di che cosa dobbiamo parlare? Già la settimana scorsa avevamo parlato di un momento di stallo, un po' delle mobilitazioni al di fuori delle scuole, quindi delle manifestazioni, e quindi già la cittadina della settimana scorsa ragionava a come rilanciare il movimento studentesco e degli studenti medi in generale. E quindi anche questa settimana potremmo già chiamare qualche studente dell'assemblea cittadina. Si stava ragionando su nuove pratiche da utilizzare per rilanciarsi sul territorio. Molti dicevano di occupare parcheggi, di occupare sale municipali o addirittura di pulire i giardini per far capire alla socialità che gli studenti sono utili e vanno ad aiutare il sociale, non i baroni. Aggiungerei che sono utili quando non vanno in radio a dire stronzatine, si può dire secondo te? Hai detto una bestemmia, non puoi dire una parolaccia, mo. Ho detto una bestemmia, no, non l'ho detto io la bestemmia, non facciamo queste cose. Vabbè, comunque 87.9 Radio Onda Rossa, andiamo ad ascoltarci ancora un po' di musica mentre magari cerchiamo di collegarci con qualcuno dell'assemblea cittadina che tra l'altro si sta svolgendo anche in questo momento, che abbia qualcosa da dirci. I discorsi che si fanno di più in questo momento sono discorsi di spazi di aggregazione per gli studenti. Fino adesso le trasmissioni, mo sto fissato con la radio, le assemblee si sono potute svolgere in piazza davanti alle scuole, dentro le scuole. Ma in realtà c'è una carenza di spazi. Adesso che arriva il freddo, arriva la pioggia e tra un po' forse la neve, toccherà che queste assemblee si riuniscano anche al chiuso, al calduccio, perché gli studenti se no si ammalano e questo paese veramente non avrà un futuro. Però gli squilletti ci piacevano, 0649 1750 il numero della radio, continuate. Prepariamo la corrispondenza, continuano ad arrivare squilletti su queste note di musica che abbiamo improvvisato a causa dell'assenza del computer. Grazie all'antica, insomma antica, vecchia tecnologia del lettore CD, possiamo andare comunque in trasmissione con musica di vario genere che troviamo qui in radio. Quindi buon ascolto, e vi ricordiamo che se volete votare questa canzone con il nuovo sistema che abbiamo ideato, insomma neanche troppo nuovo, vi prego fate uno squilletto. I'm your transformer, call me Marlin, call me Gino. Let me, you know, I like it, ci leme, mi piace. Ring up Studio 54 New York. In onda ancora di Squilletti 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 16:42 minuti primi e 57 secondi, 87.9 l'ho detto già, 0649 1750 per continuare a farci Squilletti e votare questo pezzo. Solo che come la facciamo la classificazione, nel senso noi abbiamo il CD e non abbiamo la copertina e non sappiamo come si chiama il pezzo. La traccia numero 4. Questa è la traccia numero 4 di traccia numero 4, minuto boh. Minuto 45, 46 secondi. Secondi, minuto secondi e basta. E chissà se ve lo ricordate lo spot per il 10 dicembre, la serata degli studenti medi auto-organizzati a Generazione P. Concerto con Assalti Frontali e Inoki, che ringraziamo ancora per essere venuti a suonare per noi. Ed era intervenuto in radio per fare uno spot, lo spot che è andato in onda nelle due settimane precedenti alla serata. E buonasera professore, lui è con noi in studio e siamo pronti per un'intervista. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Senta, poi ieri, l'altro ieri ha visto, no, era ieri, non sono venuto a scuola perché lei ha dato comunque tutti quei compiti, però insomma spero non mi abbia messo due. E invece sì, ti ho messo uno. Come uno? No, uno non, cioè, si può fare, professore. Il due lo puoi recuperare, l'uno invece no. Quindi adesso ti tieni quell'uno. Uno, eh. Vabbè, sono il primo però. Cioè, proprio primo. Io però, professore, glielo avevo detto che non studiavo. Cioè, io Asaia che ora ho fatto sabato sera? No, io non lo voglio sapere. Ho fatto le 4 di notte, mi sono bioccato le 6 perché mi ero calato troppo amaro. Cioè, non so se hai capito. cioè che praticamente cioè, guardi, la prego, la prego di non scendere nel personale perché edificio scolastico. No, l'edificio scolastico c'è stava prima e era meglio che ci restava in realtà, ma questo qui è superabile, nel senso che cioè comunque è trascendente la cosa, no? E perciò questo lasciamo perdere, però al latino io domani vi faccio interrogare se vuole. Guardi, lei si deve fare interrogare in latino, in storia dell'arte, in chimica, e quante ne deve e fare? E bla bla, ho capito professore, però pure lei mi venga incontro, cioè a me non mi va. Guardi che le metto una nota se non studia e soprattutto se mi risponde così. No professore, io per domani non studio. E io ti metto una nota e poi ti boccio. Ma come mi bocci? Oggi c'è Regioner. E lo so che c'è Regioner, però devi imparare che devi studiare prima di andare in radio. E allora adesso... Vabbè, professor, e adesso no, basta, io da basso arrivo. Adesso ti interrogo in latino. ...16:46 minuti primi, ringraziamo il professore dello spot della serata del 10 intanto dicembre. Io ti boccio, poi vediamo sì, che va fine bene, fai. Grazie lo stesso professore, accompagnatelo alla porta, grazie, arrivederci, salve. 16:47 minuti primi, finalmente se n'è andato dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi sti professori che ci mettono due non ci stanno simpatici, vogliamo dei professori che ci aiutano ad andare avanti e ci insegnino qualcosa e ci formino per il mondo del lavoro. 87.9 ancora, Radio Onda Rossa, 0649 1750, tutta musica. Thank you. E allora niente, 16:52 minuti primi 38 secondi, 87.9 in FM per Radio Onda Rossa, 06491750. La trasmissione è andata così oggi, questo martedì 13 dicembre 2011. Vi ricordiamo, purtroppo ci scusiamo per come è andata la trasmissione, un po' solo musica, ma ci abbiamo avuto un po' da fare tra PC e cose varie a causa di questo blackout che c'è stato stamattina. Ci scusiamo e speriamo che adesso i problemi si siano risolti, almeno le prossime trasmissioni si possano svolgere al normale. Io comunque direi che il più grande problema di questa trasmissione sia stato deccarsi via Bassai, per il resto è andato tutto liscio. È andato tutto liscio, solo lui il problema. Solo io il problema. È entrato non tu, che dopo che io avevo fatto il giochetto di, insomma, alzare a abbassare, che si fa, i DJ professionisti lo fanno, io lo vedo, fanno in radio, secondo me non lo vedi. Sì, io lo vedo, mo faccio come Sgarbia, lo vedo. Comunque vorrei far notare che quando è entrato lui nella redazione qui a Radio Onda Rossa è saltata la luce. Quando è entrato lui, Io. Sì, lui. Io. Sì. Io. Sì. O quello dietro di me che stai guardando con la coda dell'occhio. C'è un poster dietro di te, non so. È stato te. No, non sono stato io, non. Vabbè, è possibile. Comunque, come vedete, andiamo sempre a finire a schifio, sempre a cazzeggiare. Invece dovremmo smetterla, mettere un po' di musica, parlare di cose serie. Invece siamo fatti così. Mettiamo un altro brano prima di chiudere. Neanche vi potremmo mettere la nostra sigla finale. Beh, speriamo di sì, quella lì almeno. Mo cerchiamo un modo. Dici? Io lo voglio trovare il modo, però sinceramente non lo so, non lo volevo dire in diretta, te lo volevo dire in fuori onda, che forse non si poteva mettere, però tu hai rovinato il tutto. Poi dice che il problema sono io. Io voglio preparare moralmente, psicologicamente i nostri spettatori al fatto che non sentiranno l'estate bella. La speranza è l'unica cosa che gli rimane ormai, cioè, questi qui io speravo che facessero una bella trasmissione, invece no, sono completamente cretini, fammi fare uno squilletto per pena. Mo sono quasi le 5, dicono vabbè, almeno mi mettono Cattivi Maestri e Degli Assalti, e invece manco quella, cioè lasciali sperare, no? Almeno insomma, cioè, così almeno hanno una consapevolezza. No, basta, io non parlo più, ti spengo pure il microfono. No. Mes yeux bleus dans tes yeux noirs, c'est un beau jour pour mourir. C'est un beau jour pour mourir, c'est un beau jour pour mourir. Je suis armée jusqu'au camp, plein d'amour pour mon amant. Dormir dans tes yeux longtemps, dormir dans tes yeux longtemps. It's a pretty day to die, my blue eyes. Your black eyes, it's a pretty way to die, it's a pretty way to lie. Mes yeux bleus dans tes yeux noirs, c'est un beau jour pour mourir. C'est un beau jour pour mourir, mes yeux bleus dans tes yeux noirs. Io direi che è ora di ricambiare disco un'altra volta. Cambiamo disco quando mancano 2 minuti e 23 secondi e 22 e 21 e... No, cappellato, scusate, ho sbagliato. mo che famo? Poi è colpa mia se la trasmissione va male. Allora, mettiamola così. Spenta il microfono, non puoi più parlare. 87.9 di Radio Onda Rossa, 16. No, fregato il microfono. Oppure fregato il microfono, così non parla più. Siccome lui ha tolto il microfono a me, adesso io l'ho tolto a lui. Vabbè, te lo riaccendo, dai. Ecco, adesso ognuno ha di nuovo il suo microfono e cerchiamo di chiudere questa trasmissione mettendo un'altra canzone. Te l'ho spento di nascosto e tu neanche te ne sei accorto. E poi mo non parla nessuno, anzi parlo solo io e poi vediamo come te senti te, va bene? Ok, adesso mettiamo un'ultima canzone, perché Matteo la metti adesso in ultima canzone. E cerchiamo di chiudere la trasmissione con Assalti Frontali. Ripariamo questo computer. Come al solito 0649 1750, se vi piace. Compagni e compagne, buonasera, buon aprile, buona primavera, buon inizio di millennio. Come previsto si è andati a vittoria facile prevista di Romano Prodi. Con emozione altissima. Con emozione altissima, la valutazione che si vinceranno le elezioni amministrative il 28-29 maggio con il centro-sinistra. Giuliano Amato sarà eletto prossimo presidente della Repubblica Italiana. Allestiamo la reclamazione dedicandola all'impero e al corpo. Tesi, ipotesi, sintesi, traiettoria, consistenza, realizzazione, pensiero, idea, programma, teoria, ideologia, rivoluzione, cosmo rosso, cosmo, libertà ed uguaglianza. Primavera, buon inizio di detto che gli avevi levato la speranza alla gente, ai nostri cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Beh, come hai detto tu, comunque la speranza è l'ultima a morire. Tutti nel cuor nostro sapevamo che alla fine sarebbero tornati i nostri Assalti Frontali, solo loro però, eh. Pronti per la nostra sigla? 17:02 minuti primi, 18 secondi già in ritardo per lasciare lo spazio al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Già una compagna entra qui, dici un ciao. Ciao a tutte!